Lucio Manisco, giornalista notissimo, ex corrispondente della Rai di New York e attualmente europarlamentare per i comunisti italiani a Bruxelles, nell'editoriale di oggi sulla riunione del 23 e del 24 scorso al Congresso degli Stati Uniti sulla carenza di misure preventive al famoso attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle, fa emergere che in quelle 48 ore di deposizioni e battibecchi tra congressisti repubblicani e democratici, ricordiamo che Condoleezza Rice si è rifiutata di deporre, ma così invece non hanno fatto e hanno deposto Madeleine Albright, l'ex segretario di Stato, e anche l'attuale segretario di Stato Colin Powell. Dicevamo, sono emersi fatti davvero incredibili, come gli assassini mirati, i bombardamenti massicci e le stragi di civili sono sempre stati all'ordine del giorno dell'amministrazione, tanto quella Clinton quanto quella attuale di Bush. Insomma, il bersaglio grosso a partire dal 95 per la Casa Bianca era sempre Bin Laden, molto ben conosciuto, il quale naturalmente aveva messo a buon uso gli addestramenti al terrorismo antisovietico ricevuti ed impartiti dalla CIA fin dagli anni 80. Il rumore di una bomba, il clamore delle dichiarazioni sono soprattutto quelle di Richard Clark, l'ex consigliere alla sicurezza della Casa Bianca, che ora naturalmente con queste accuse è diventato il beniamino dei democratici e del senatore Kerry nella sua corsa alle presidenziali. Ce n'è abbastanza da far rizzare i capelli in testa chiunque pensi ancora alla Repubblica stellata come patria del diritto, della libertà e come grande arsenale della democrazia. E siamo solamente all'inizio di questa sessione del Congresso degli Stati Uniti sulla indagine dell'11 settembre. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.